Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ecco Perisic, il controllo, Perisic, il dribbling, Perisic! La firma di Ivan Perisic per il 2-0. Fare tirare il 10 così a occhio. Va infatti Dybala! 3-1, tripletta, pazzesco! Re mi Dybala, quello che tocca, diventa oro! Mertens, stesso angolo e stesso risultato, tripletta per Mertens. Quello che ha vestito più volte questa maglia è vice allenatore della squadra, che grazie a Goran Dragic, ma non solo, è campione d'Europa per il 2017. Allo spegnimento, il via del Gran Premio di Singapore che scatta adesso con un buono spunto di Max Verstappen che va all'attacco di Sebastian Vettel. Ottima partenza di Kimi Raikkonen, va all'interno, il contatto Raikkonen con Max Verstappen e il contatto anche con Sebastian Vettel. Bisogna vedere quanto eventualmente fuori la Red Bull, quanto eventualmente fuori il Red Bull di Verstappen. Bisogna vedere la macchina di Sebastian Vettel, non ce la fa Sebastian Vettel, non ce la fa, si è girato Sebastian Vettel, che disastro. Premuta sonora dei temi della domenica, il calcio in realtà, mentre Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, temi di calcistici tutto sommato banali, perché tutte le grandi hanno vinto, i bomber a segno e che vuoi di. Invece, bellissima la finale degli europei di basket ieri sera, meravigliosa partita di pallacanestro, ma la scuola slava non tradisce mai. Serbia a sorpresa, ma neanche tanto, battuta dalla Slovenia, che non ha mai perso fino alla medaglia d'oro di questo torneo. E poi il vero tema della domenica, il botto di Sepang. Primo messaggio di oggi, primo WhatsApp: vogliamo Leoturrini. Anch'io lo voglio, Leoturrini. Buondì. Scusate, sto ancora elaborando il dolore qui in coda sulla Pero Cormano, dove è successo che due panda rosse siano entrate in collisione e noi siamo qui bloccati con i nostri sogni infranti. Sul comunque bagnato, è successo, maestro Genta, a Singapore. E che si è trasformata nella Sing Sing, il carcere delle speranze Ferrari. Cosa possiamo dire? Lei mi ponga delle domande così io posso le faccio notare solo una cosa, che così a caldo molti se la sono presa con il nostro amato biondino. Ma per l'amor di Dio, cioè, il cobra, quello carità, che ha il sangue nelle vene e che è freddo, poteva far passare, poteva non rischiare, poteva fare altre... poteva anche farsi spuntare le ali e decollare. Allora senti, io vorrei, togliamo subito no, dal ti tavolo. Dico la mia, poi tu dici tutto. Vabbè, quello che vuoi a difesa del... no, la mia è questa. Ma, ma non c'è da difendere nessuno qui. Fa una partenza da paura e gli vengono a dire, ma scusa, adesso io che sei partito tutto troppo bene, che bravo, sei un pilota, cioè, che allora, è stato campione del mondo sentito, sulla rossa, che il piede sentito, lo tieni giù, lo tieni giù. Io ho sentito gente, anche perché a me è difficile spingersi ad affermare come Raikkonen azzecca una partenza da fenomeno proprio nella circostanza in cui non serve. Allora se è così, parliamo di Dybala, parliamo di Perisic, parliamo di quello che vuole della Slovenia, perché io mi rifiuto in coda sulla Pero Corbano, causa collisione tra due panda rosse, di farmi anche prendere per i fondelli. Allora, l'unico pilota che in questo disastro di partenza non c'entra una beata mazza è Kimi Raikkonen, che ha fatto una partenza perfetta, che rispondeva alle esigenze della Ferrari, perché l'obiettivo era di avere primo e secondo Vettel e Kimi dopo la prima curva, in modo da ipotecare una doppietta. è successo qualcosa di diverso. Io, guarda, sono d'accordo con i giudici che non hanno sanzionato nessuno, sì, perché malinconicamente questo è davvero il classico, come si dice, episodio di gara, un normale incidente al via, piove, corrono di notte, insomma è stato uno tsunami di coincidenze sfavorevoli, esatto. Ma l'unico proprio che non gli si può dire nulla è Raikkonen. Poi ripeto, siccome vivo anch'io in questo mondo infelice, se uno mi salta fuori a sostenere ma come, non deve partire bene, no, Raikkonen, vabbè. No, vabbè, allora ribadisco, parliamo di Palacio, ragione. Che domani sera farà il gol dell'ex alla mia Inter, io sono già qui che rosico di fronte a questo evento, hai capito? È andata nella maniera peggiore, nella circostanza peggiore, diciamo la tempesta perfetta, giusto? Bravo, la tempesta perfetta. Tempesta perfetta, e purtroppo, ripeto, in una situazione di campionato nella quale gli spazi per recuperare si restringono, perché un conto se tu hai 28 punti in meno a 12 gare dalla fine, un conto è se ora sei appunto sotto di 28, di corse ne rimangono solamente 6. Certo, è chiaro. Senti, tra poco approfondiamo le prospettive, però io su questo su questa tempesta perfetta parliamo di Palacio. No, parliamo con Jarno Trulli. Parliamo con Jarno Trulli, che ne dici? Parliamo con ciao, un pilota di Turrini. Ciao Jarno. Allora, io e Turrini ci stiamo provando a spiegare la tempesta perfetta che ha travolto la Ferrari. Qualcuno, come sempre capita in Italia, cerca delle responsabilità, come quello che ti dice: il bambino ha il raffreddore, a colpa tua, la moglie e il marito. Qui mi sembra che le colpe siano più o meno di nessuno, perché Vettel parte male, onestamente, e quindi se vogliamo cercare una responsabilità è quella. Verstappen, cosa gli vuoi dire? Il ragazzino va dentro come un missile e il piede non lo tira su. E Raikkonen? Allora, non dobbiamo cercare responsabilità, bisogna solo analizzare i fatti sono molto chiari. Raikkonen, che è stato quello che è partito meglio, si è infilato tranquillamente alla sinistra di Verstappen. Verstappen è partito meglio di Vettel e quindi con il muso si è andato a infilare, diciamo, alla sinistra di Vettel. Vettel non ha fatto una manovra sconsiderata, vi spiego il perché, ve lo dice un pilota. Perché in partenza normalmente si va sempre a cercare l'interno dopo la partenza, per evitare che magari qualcuno si vada a infilare o ti venga a mettere il muso proprio alla fine, magari ti tocchi e ti butti fuori. Quindi Vettel è partito e poi si è spostato verso sinistra. Ora che cosa succede? È vero che poi il tutto è accaduto per colpa di Vettel, perché è stato Vettel a cambiare traiettoria e ad andare verso Verstappen. Verstappen non poteva, per una volta tanto Verstappen non c'entra nulla, non poteva andare da nessuna parte, era lì con un salame in mezzo a un panino. Vero. Raikkonen ancor meno, perché Raikkonen era quello che era partito meglio, andava, era partito a tutta velocità sulla sinistra, li avrebbe passati tranquillamente tutti e due. Ora cosa succede? All'interno dell'abitacolo Vettel non aveva la possibilità di sapere esattamente dove era Verstappen, e la stessa cosa accadeva per Verstappen, perché con gli attuali monoposto di Formula 1 la visuale è molto limitata, perché con questi sistemi di sicurezza abbiamo praticamente il casco avvolto all'interno dell'abitacolo, quindi una macchina non la vedi finché non la vedi proprio tutta completamente al fianco. Sì. E l'unica visuale che poteva avere Vettel era quella dello specchietto retrovisore, ma che guarda dietro. Mm-hmm. Questo non sto, con questo discorso non sto dicendo, sto solo spiegando, certo, quello tecnicamente che tecnicamente quello che è successo, Jarno. Bravissimo, una dinamica, è stata una dinamica di gara purtroppo molto sfortunata, dico sfortunata per la Ferrari e per Vettel, che ha portato all'esclusione di tutti e tre i piloti. Poi, se vogliamo responsabilizzare un pilota invece che l'altro, chiaramente dobbiamo dire che Vettel magari poteva fare quella manovra in maniera un po' più adeguata, un po' più tranquilla. Lui si sposta come tutti si sarebbero spostati, sì, per andare a cercare l'interno, ma certo, purtroppo invece che l'interno ha trovato lì la ruota di Verstappen, che era in mezzo a quella di Raikkonen, che non si potevano spostare, insomma era un incidente a quel punto inevitabile. Chiaro. Dicevamo la tempesta perfetta, ragazzi, vi chiedo un secondo di pazienza per il traffico, quelli che vanno in macchina tranquilli, piano, non vi fate suggestionare da Jarno Trulli e Leo Turrini, neanche da Verstappen, Vettel e Raikkonen. Traffico, torniamo subito. Sconvocati. Mi dispiace molto, molto, molto per i nostri tifosi, ma ci rifaremo. La macchina, l'abbiamo dimostrato ieri, è un'ottima macchina. Abbiamo due ottimi piloti e da parte nostra c'è tutta l'intenzione di lottare fino all'ultima curva dell'ultimo Gran Premio. È difficile, ma non è impossibile. Difficile ma non impossibile, dice il professor Arriva Bene. Leo Turrini, Arno Trulli per parlare del disastro rosso di Singapore di ieri, 800-24-00-24 per intervenire. Leo, Jarno ci ha dato una lettura ovviamente perfetta da pilota. Io adoro Jarno Trulli. Non tutti sanno che oltre ad essere stato un grande campione di Formula 1 è anche un produttore di vini strepitosi. Sì, stiamo ancora aspettando la cassa in redazione. È talmente comunque lucido quando espone le cose. È perfetto. Che dimostra che il vino lo fa ma non lo beve. Detto questo, sentendo le parole di Iron Maurer Arriva Bene, è evidente che adesso la Ferrari deve scalare l'Everest senza bombole di ossigeno a mani nude, perché 28 punti, 6 gare, c'è poco da girarci attorno, è veramente difficile. Io però vorrei risollevare lo spirito di quanti come me sono in coda sulla Pero Formano perché le due Panda Rosse si sono schiantate. Aggiungo, prima di darvi questo conforto, una cosa curiosa: è vero che Verstappen nell'episodio è innocente, ma Verstappen quando vede rosso diventa un bull, un toro da Red Bull, perché fateci caso, quando lui Satia vede una Ferrari con questi, si scappa sempre un mezzo casino. E mai con la Mercedes, vabbè, aperto e chiuso parentesi. No, allora, 10 anni fa, ultimo titolo mondiale della Ferrari, Jarno era ancora un pilota di Formula 1, la vittoria valeva 10 punti, a 2 gare dalla fine Kimi ne doveva rimontare 17 ad Hamilton e vinse il titolo. Qua di punti ce ne sono, col nuovo meccanismo, ancora 150, prima roba. Seconda cosa, proprio Vettel lo sa bene, perché quando ha conquistato il suo primo mondiale con la Red Bull nel 2010, ahimè, ai danni della Ferrari di Alonso, a 2 gare alla fine sembrava tagliato fuori, le ultime 2 gare erano Brasile e Abu Dhabi, esattamente come nel calendario del 2017, le vinse e si portò a casa il campionato. Allora quindi, io penso che ci si debba provare. Poi sì, è chiaro, ma ci si debba provare per forza, ma ci deve provare, sì, certo, però ti rifai un po' alla cabala, un po' ai numeri, un po' ai dati di fatto, Jarno. È chiaro che ci devono provare fino alla fine. Servirebbe un bello zero da parte di Hamilton, questo sì. Ma come al solito lui è stato estremamente chiaro. Le gare si vincono alla fine, non adesso. Mancano ancora 6 gare. E le percentuali sono molto più alte di una volta, come diceva Leo, perché oggi abbiamo 25 punti in palio per ogni gara, 1-0 in casella, e sappiamo che Vettel ne ha avuti ora. Diciamo che Vettel ha pagato dazio finora. Vediamo se a questo punto Hamilton paga dazio anche lui, perché tanto il mondiale è estremamente equilibrato, 28 punti. È chiaro che se noi li guardiamo sotto il profilo della classifica nuda e pura, oggi sembra un'eternità, ma stiamo attenti, perché basta un passo falso da parte della Mercedes e la Ferrari di nuovo là, certo, con Vettel. Quindi io direi, andiamo avanti, vediamo, analizziamo le prossime gare, andiamo a vedere dove la Ferrari veramente può dominare di nuovo, dove Vettel può vincere in pista sotto la bandiera a scacchi, senza pensare ai sei, ma è alla sfortuna. Andiamo a vedere cosa possiamo fare con le capacità della Ferrari, e poi è chiaro che un po' però di fortuna. Però qui si tratta di vincerne una in trasferta, perché già abbiamo fatto questa sorta di confronto con Leo Turrini, erano divise più o meno al 50% le piste favorevoli e quelle sfavorevoli. Singapore doveva essere una pista Ferrari, le prove del sabato hanno detto che poteva essere la pista Ferrari, c'era Bagnato, situazione che il tedeschino ama. È andata male, adesso bisogna vincere su un circuito che potrebbe essere invece favorevole alla Mercedes. Mi sbaglio, Jarno? Assolutamente sì, ma guarda, ci possiamo aspettare di tutto da questa Ferrari, perché quest'anno abbiamo visto che comunque è arrivata competitiva, abbiamo visto una Ferrari competitiva quando non ce l'aspettavamo e una Ferrari non competitiva quando invece ce l'aspettavamo, come a Monza ad esempio. Io me l'aspettavo più competitiva, invece ha pagato dazio. Comunque, nulla è perso, ci sono ancora 6 gare. E comunque la storia dice che fino alla bandiera a scacchi dell'ultima gara non si può mai dire mai. Leo, hai qualcosa da chiedere a Arno Trulli o lo salutiamo? No, io vorrei dire a Jarno che se si decide a far apprezzare a Genta il suo vino sarà un gesto molto gradito. Io sono qualche aspetto. Perché Genta, contrariamente a Jarno, è anche un consumatore di vino. Avete ragione, avete, guardate. Passo troppo tempo ora, sto seguendo mio figlio con i kart, quindi weekend sono sempre lì dietro e mi veramente vengo preso da queste cose, mi dimentico spesso e volentieri. I motori vengono prima, non c'è niente da fare. Siamo malati di quello. Io sulle due ruote, voi sulle quattro, ma tant'è. Grazie, Jarno, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, Jarno Trulli. Ciao, Jarno. Ciao. Leo Turrini, io le regalo invece Gianpaolo da Varese. Sentiamo cosa dice. Gianpaolo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. A lei. Allora, una cosa veloce, parafrasando il grande Turrini, Mo Vettel, che lotta per il mondiale, mo mi va a puntare Verstappen in partenza, che quando vede rosso diventa un toro, che messa assieme alla ruotata a Hamilton durante la safety car a Baku, se non sbaglio, non è che gli si chiude un po' troppo la vena? Vi ascolto, grazie. Dunque, Turrini? Beh, allora, è evidente che se uno fa un ragionamento, diciamo così, e saluto con l'affetto l'amico di Varese, da ingegnere del lunedì, come diceva Enzo Ferrari, potrebbe supporre che forse Vettel avrebbe dovuto calcolare che Verstappen è un pazzo e quindi magari, che guarda caso è quello che ha detto proprio Verstappen in questa delirante dichiarazione dopo gara, che ha detto era lui che doveva alzare il piede perché al mondiale se non gioca lui, tanto per rendersi più simpatico. È vero che Verstappen crede di andare in pista da solo, perché se in quasi tutti gli incidenti in partenza c'è sempre in mezzo lui, è fatica cominciare a continuare a credere che sia una coincidenza. Ma detto questo, io rispondo in questo modo, e anche Vettel è un pilota, ha fatto la pole position con un capolavoro al sabato straordinario, sa che a Singapore più ancora che su altri circuiti non si sorpassa proprio, quindi è consapevole che è fondamentale essere davanti alla dopo prima la prima curva, e ha fatto il pilota anche lui. Poi dopo, con quello che è successo, appunto, uno può mettersi lì e dire ma avrebbe dovuto Leo fare i calcoli, ma io non me la sento. Guarda, io ti dicevo prima, anch'io, si dividono in piloti e qua. Questi sono piloti veri. Ma guarda, caro Gento, tu non eri ancora nato nel 2000. Nel 2000 Schumi rischiò di perdere il mondiale perché nel cuore dell'estate ebbe due incidenti consecutivi in partenza. È tutti giù a dire che non sapeva più partire, che gli si chiudeva la vena, che qui e là. Invece sono cose che, ribadisco purtroppo, appartengono alla dinamica dell'automobilismo. E io a questo punto vorrei lanciare una petizione a nome di tutti i gufi che seguono questa bellissima trasmissione che è Tutti Convocati, firmiamo una petizione con l'auspicio, come ha detto Iernone Trulli, che anche Hamilton possa incappare in uno zero. Anche a lui, voglio dire, gli può cedere il motore come in Malesia un anno fa e adesso stiamo andando in Malesia, oppure arriva Lindsay Vonn, oppure ma potrebbe persino accadere che Verstappen all'improvviso faccia il matto anche vedendo il colore argenteo della Mercedes, perché no? Quindi non lo sappiamo. L'imponderabile non lo possiamo conoscere. Dobbiamo Turrini appellarci a gufi, civette e cornacchie. Massimo da provincia di Pavia, poi salutiamo Leo Turrini, che è sempre sulla Pero Gormano, ovviamente, con le due panne sono schiantate. Dica Massimo. Ah, benissimo, intervengo volentieri perché c'è Turrini che è filo raiconiano, come si dice. Sì, molto, allora, no, più che filo è ultra. Dica. Ultra, ma nessuno mi dice una cosa: l'incidente di domenica non è successo domenica, è successo sabato, quando noi ci siamo resi conto di avere un Raikkonen secondo pilota Ferrari che non riesce a tenere il passo neanche a pochi decimi del suo compagno. E cosa ha generato? Che non partendo di fianco al suo compagno è successo quel che è successo. Noi, e poi concludo, vediamo che c'è Bottas che è sempre incollato ad Hamilton, c'è Verstappen che è incollato a Ricciardo, viceversa, abbiamo Perez e Ocon che sono incollati l'un l'altro, che fanno il secondo pilota. Se noi abbiamo un secondo pilota che invece di partire di fianco al suo compagno parte in terza fila, È logico che poi succedano queste cose, tant'è vero che ha quasi la metà punti del suo compagno di squadra. Questo è successo. Capito. L'incidente è successo da sabato. Capito, non Leo. Da domenica. Capito, Leo Turrini. Ma no, io voglio molto bene questo interlocutore. Innanzitutto Raikkonen era in seconda fila, non in terza. Seconda cosa, dopo sabato, dopo la pole, tutti, non solo io, abbiamo sostenuto che Vettel aveva fatto un prodigio, una sorta di capolavoro assoluto, ed è vero, rischiando anche di rompere la macchina sfiorando il muretto, e Raikkonen aveva fatto il quarto tempo. Sento dire anche da questo amico Bottas a Singapore ha beccato quasi un secondo da Hamilton in qualifica. Cioè, io vorrei che quando si parla poi si parlasse sui fatti. Il sabato a Singapore la Red Bull andava più forte della Ferrari, è stato Vettel che è uno dei re della pole, che ne ha fatte 49, che ha fatto un miracolo grazie al grandissimo lavoro di ingegneri meccanici che hanno risistemato la macchina e così via, ma come valore assoluto, senza la differenza del pilota, ed è per questo che la Ferrari ha preso Vettel, in prima fila c'erano le due Red Bull. Quindi venire fuori a dire che adesso l'incidente è colpa, voi vi dovete mettere d'accordo, però se Raikkonen fa quarto è colpa sua se c'è l'incidente, perché poi parte benissimo e sarebbe stato nella peggiore di poi secondo la prima curva, no? Se fa la pole, perché è successo anche questo, come a Monte Carlo, tutti a dire ma come viene a rompere le scatole a Vettel? Ragazzi, allora mettetevi allora, d'accordo, hai ragione. Bisogna, in futuro vedrete che nelle università di giornalismo, di scienze delle comunicazioni si studierà il caso Italia Kimi Raikkonen nella sezione fake news, le notizie false, perché uno che fa la partenza di Raikkonen ieri e io mi sento dire ma è l'incidente, no, perché poi lui, se la Ferrari in qualifica, allora, parliamo quel, di palazzo, quello che ti dico Turrini è che no, se la Ferrari vuole uno scendiletto come ce l'aveva Michael Schumacher, allora non prende palazzo. Kimi Raikkonen, perché Kimi Raikkonen è un pilota e i piloti provano ad andare forte. Io sono in coda sulla Pero Cormano, due panda rosse si sono schiantate fra di loro, debbo anche essere addolorato da queste osservazioni che peraltro rispetto, e sono turbatissimo all'idea che domani sera a Bologna il mio idolo Spalletti metta in campo Ranocchia dal primo minuto su Palacio. Quindi veramente è un periodaccio. Adesso è passiamo al calcio. Momento. Adesso, dopo la borsa, passiamo al calcio, ai temi di ieri. Arriva Pardo, come sai, passiamo al calcio. Te lo saluto, ci Pardo, penso io. Sicuramente un fan di Verstappen, lo so. Lo sai. Va bene. Ciao Leo. Ti abbraccio. Anch'io, ciao. Allora, prima della borsa, voglio farvi sentire quantomeno uno spunto sonoro su un altro dei grandi eventi di ieri che ho citato, questa incredibile, meravigliosa partita di pallacanestro, questa meravigliosa danza contemporanea che abbiamo visto ieri sera, quasi la partita perfetta, che finale degli europei, Istanbul, la Slovenia ha battuto la Serbia, che è al terzo argento consecutivo dopo mondiali e olimpiadi, questo sembrava più acciuffabile, non c'erano gli Stati Uniti ma c'era una Slovenia davvero formato NBA, con Dragic che in una partita anche drammatica ha fatto 35 punti, ha giocato una gara incredibile, nel finale non ce la faceva più, Krampi si è fatto male, con Doncic anni 16, signori, anni 16, stella del Real Madrid, 2,6 m, un futuro nell'NBA garantito. Il mio amico Saša Djordjević alla fine addolorato. Sono molto orgoglioso, sono molto grato a questi ragazzi perché hanno dato tanto, hanno messo il cuore ogni giorno, hanno lavorato, hanno creato un gruppo, c'era un grande capitano come Maxo anche che gli portava serietà e hanno voluto questa medaglia tantissimo, e perciò stiamo in una continua crescita, penso, è la terza medaglia di argento in questi quattro campionati. Andiamo avanti, quindi come dice Bogdanovic, vinceremo noi questo oro, senz'altro. Così Saša Djordjević, ma il punteggio, il tabellone alla fine diceva 93-85 e Slovenia campione d'Europa, meritatissimo titolo peraltro, non hanno mai perso in tutto il torneo. Tutti convocati. Occhio a quest'altro pallone per Dzeko, eccolo qua, il 3-0, lo cercavano con regolarità, Dzeko trova la doppietta, 3-0. Oh, sometimes I get a good feeling. Mandžukić ci scappa via, Letschert resiste, va subito a cercare al centro Dybala che controlla il pallone, calcio in porta senza neanche pensare, festeggia Letschert con la Juve, col gol numero 50. Parte Suso, Stuvone di Kessi, Kalinic, ancora lui, e il Milan di nuovo in vantaggio. Insigne scambia ancora con De Marcans, aspettano lo sviluppo dell'azione, Mertens e Caglione dentro l'area, il pallone arriva e Dries Mertens firma il 3-0. Rischia e sbaglia, serve Immobile, Immobile va da solo contro Perin, Immobile contro Perin, pallonetto, palo e poi gol, due volte giro Immobile, erroraggio di Gentiletti e la Lazio di nuovo avanti. Beh, sui prati del calcio è stata la giornata dei bomber, è stata la giornata delle grandi che prendono a bastonate le piccole, dei tre, delle tre sorelle là davanti in classifica, in Serie A, tutto secondo pronostico. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, molto bene. Stefano Colantuono, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao mister. Ciao a tutti. Allora, se ti ricordi, l'ultima volta che ti abbiamo chiamato io e Pardo, sei andato a allenare il Bari il giorno dopo. Non so se portiamo bene oppure sfiga, no, questo decido. Beh, tu. Comunque è lavoro, no? Sì, sì. Non ha importanza, non andiamo dietro a queste cose. Va bene, va, però se ti suona il telefono, chiediamo la percentuale, tu sappi. Come mi Va bene? Pigliamo, ti faccio uno scherzo. Sono Aurelio De Laurenti. Gli dai il Liban. Gli dai il Liban. Ah, tra l'altro, ci hanno promesso per i prossimi giorni Aurelio De Laurentiis ospite a Radio 24 in studio. Già, sì. Già te lo dico, poi preciserò la data. Allora, da dove partiamo? Corsa 3 oppure bomber, Pardo? Io partirei dai bomber perché è un argomento che mi intriga un po' di più. Dzeko, l'hai raccontato tu, l'hai sottolineato a telecronaca che abbiamo sentito. È tornato ad avere le munizioni, finalmente lo cercano con continuità, non è più l'orfanello di Salah, di Nainggolan come era prima. Dybala fa magie sui campi di provincia, bellissimo, bravissimo, fortissimo, ma quando le farà a Camp Nou, al Bernabeu, al Trafford? Il Napoli, ma come? Fai turnover in Champions. Poi giochi col Benevento lo sdrai 6-0 e adesso giochi con la Lazio, che fai? Allora vi pongo questi tre interrogativi, a cominciare da Colantuono. Vabbè. Partiamo da Dzeko e dalle munizioni. Ma Dzeko è chiaro che sarebbe stato soltanto una questione di tempo, un giocatore che è abituato a segnare con continuità come lui, non è che poi perché c'è il cambio di allenatore perde la verve o perde la linea realizzativa. Anche perché poi è chiaro, Sarri sono stati completamente diversi, con tutto il rispetto per il Verona, ci mancherebbe, l'Atletico è un'altra squadra, e qualche difficoltà in più la vuole incontrare. Certo, però Dzeko si è lamentato dicendo così non mi arrivano palloni giocabili. Pardo, hai visto qualche novità nella Roma che hai commentato sabato? Guarda, bisognerebbe capire cos'è il Verona, onestamente. Sì. Ma il discorso può valere anche per il Benevento, insomma, per non ce ne voglia nessuno, no? Cioè, è chiaro che c'è una distanza tra le grandi e le piccole che è enorme. Verona, onestamente, l'altro giorno ci ha messo parecchio di suo. A me la Roma è sembrata in grande crescita, in grande ripresa, e mi sembra che rimettendo insieme un po' di pezzi abbia una rosa molto competitiva. Qualche punto interrogativo dietro, però vedi che già la presenza di Florenzi terzino destro risolve già un pezzettino di problemi, perché poi Kolarov dall'altra parte va molto bene, Manolas è una certezza, e poi rimane un quarto che può essere Farcio, che può essere Juan Jesus, aspettando il ritorno di Carter, non è messa male neanche dietro. E centrocampo e attacco, con l'arrivo di Schick, con Under che mi sembra molto interessante, alla fine metti insieme tutti gli elementi, tutti i pezzi, la Roma ha una rosa di una profondità abbastanza importante. Il modulo sicuramente non ha favorito Dzeko all'inizio, stanno prendendo le misure, però insomma io aspetterei prima di dare per fuori gioco la Roma, ma chiaramente fuori gioco Pierluigi, la Roma è lì insieme alle grandi dove le compete. Mister, invece lo strano turnover del Napoli, me lo spieghi? Ma non lo so, però l'anno scorso dicevamo sempre, o meglio, voi addetti ai lavori, mi riferisco ai giornalisti, si diceva sempre ma Sarri non cambia mai, non fa mai turnover, sempre gli stessi, giocano in 12, massimo 13. E confermiamo, peraltro, sì, che sì, l'anno scorso faceva così, è vero. Stavolta l'ha fatto, io dico che secondo me da parte di tutti forse, anche perché il Napoli ci aveva fatto grandissima impressione come sempre, abbiamo un po' sottovalutato l'avversario del Napoli, che non è l'ultima arrivata. Certo, non è un top club europeo, ma è una squadra comunque sempre da affrontare con... Certo. Con massima attenzione, e come abbassi un po' la guardia rischi di perdere, come è successo al Napoli, che probabilmente ha fatto una partita al di sotto delle sue possibilità. Ora non so se è colpa del turnover o no. Beh, aiutatemi a capire, io avrei voluto vedere lo Shakhtar è stato sottovalutato e va bene, sappiamo che è una signora squadra e va bene, ma basta leggere anche i numeri del campionato ucraino, certo. Che non sarà la Bundesliga, però è comunque un campionato civile. E poi fai turno, cioè metti la formazione migliore col Benevento che sdrai 6-0, quel Benevento più o meno lo conosci, mentre in Champions League, dove hai anche meno tempo per sbagliare, vai con una formula sulla quale stai ancora studiando. Pardo. Ma ieri Sarri l'ha spiegato nel post partita, lui si aspettava di mettere Mertens in una partita ancora in equilibrio nell'ultima mezz'ora per sparigliare e vincerla, e non è andata così. Io credo che quando fai una scelta comunque così forte e così sorprendente, cioè tenere in panchina il tuo giocatore migliore in una partita come quella in Ucraina, poi se le cose vanno male è ovvio che ti mangi le mani, su questo non c'è dubbio, e secondo me è quello che è successo a Sarri. Sarri, sono d'accordo col mister, sta imparando bene fra l'altro a fare turnover, cioè si sta abituando sempre di più, avendo a disposizione una grande squadra con una rosa molto profonda, a ruotare gli uomini in maniera un pochino più scientifica, quindi secondo me la finalità è assolutamente giusta e condivisibile, perché non puoi giocare con gli stessi 55 partite. È chiaro che col senno di poi aveva molto più senso, però ripeto, poi quando dopo il risultato è facile per tutti, è chiaro che Mertens mi sembra più adatto per una partita di Champions, esatto, poi in caso fai turnover col Benevento, esatto, poi c'era quello... di nuovo per l'azionato, insomma, è quello sì. Che così penso anch'io, grosso modo, a grandi linee. C'è un problema, Pepita? No, problema non c'è assolutamente. Si è dato da fare, non era facile. C'è un momento così, può capitare all'interno di una stagione. L'anno scorso è stato molto bene facendo tanti gol, quest'anno ha un pochino più di difficoltà. Come ho detto martedì sera dopo Barcellona, deve stare sereno perché i gol ha sempre fatti, continuerà a farli, anche perché non possiamo pensare che Dybala faccia 50 gol. Allora, questa è la risposta di Allegri. Io la stessa domanda la faccio a Stefano Colantuono. C'è un problema, Pepita? Ma no, sai, no, non possiamo mettere in discussione un giocatore del genere con quei numeri. Io condivido l'analisi di Massimiliano, insomma, è così. È un momento, va accettato, ci vuole calma, si lavora e si tornerà presto a fare quello che uno è abituato a fare e che ha sempre fatto. Un po' lo stesso discorso che inizialmente facevamo su Zero. Sì. Però io e Pierluigi l'altro giorno, Pierluigi l'ha visto anche a Barcellona commentando quella gara, no, siamo stati piuttosto critici nei confronti di Higuain, e io confermo le mie critiche. Però questo qui è una mozione d'ordine, come si diceva negli anni 70 nelle riunioni politiche, le due cose non sono in opposizione. Che Higuain tornerà a segnare è indiscutibile, sì. Quindi che Allegri lo difenda e dica di star calmi è indiscutibile. Che Higuain sia in un momento difficile, insomma, questo è altrettanto vero. Non c'è opposizione tra queste due cose, non è in contrasto. Higuain è in un periodo molto, molto negativo, però il calcio, come ben sai, è materia liquida, e magari già fra due partite, tre partite o più avanti nella stagione, Higuain tornerà a essere il giocatore che conosciamo. Semmai su Higuain ci può essere un tema che vale da sempre, sulla sua condizione, no, sulla sua capacità di interpretare certe partite speciali, dove sì, certo. Secondo me è un giocatore un pochino meno brillante rispetto ad altri, un po' più fragile emotivamente, la storia dice questo. Non sono tantissimi gli indizi, però sono abbastanza per fare una prova, perché indubbiamente se guardiamo i numeri contro le grandissime squadre, i famosi numeri contro il Barcellona, le finali perse magari con dei suoi errori, insomma, questo elemento di fragilità un po' Higuain là. Poi, poi magari le cose cambieranno. Ranieri per tutta la vita nei suoi detrattori l'ha definito un perdente e poi ha fatto un perdente di successo magari, miracolo, e poi ha fatto l'impresa più grande della storia del calcio moderno. Quindi voglio dire, le cose cambiano, su questo non ci sono dubbi. Che però Higuaín sia in crisi adesso, questo, questo va detto, perché sennò significherebbe non essere onesti intellettualmente. Higuaín è in un periodo molto complicato, magari da, domani da sera, quale, mercoledì sera, sarà, ha fatto certo. Pietra con la Fiorentina, ed è in un periodo molto nervoso, cioè la, una sorta di conferma di questo la si ha dal comportamento che ha in campo, perché comunque esce col dito medio a Barcellona. A Barcellona esce non troppo felice nemmeno ieri, e vuol dire che qualcosa non va, ma è normale, è umano. Beh, ma è normale anche per, soprattutto per gli attaccanti sono così, hanno bisogno del, del gol come dell'aria che respirano, altrimenti soffocano, e questo è capitato a, a mille centravanti, magari anche tra quelli che ha allenato Stefano Colantuono, e il nervosismo, insomma, come per i grandi sprinter bisogna placarlo in qualche maniera, no? Sì, è così, ma infatti mi sembra che Allegri ha sottolineato questo, deve stare sereno, deve stare tranquillo, perché il momento, sono d'accordo con Pierluigi, non è, un, non è sicuramente uno dei momenti migliori di Higuaín, ma col tempo sono convinto che tornerà a fare gol, tornerà a fare gol, come diceva Pierluigi. Poi rimane quel problema che probabilmente lui ancora in un certo tipo di partite, riferisco sempre a quelle in Europa, no, non riesce a fare quel, a rendersi pericoloso, ad o quantomeno a timbrare il cartellino, certo, decisivo, come lo fa in campionato. Certo, mentre Ciruzzo Immobile, per chiudere, Stefano sta guidando una Lazio che rimane sempre comunque una squadra troppo sottovalutata. Continuiamo a parlare di corsa a 5 per i 4 posti. Io direi corsa a 6 per i 4 da Champions. Io già ho parlato recentemente della Lazio. Secondo me è una squadra che si prende ogni anno, si prende poco in considerazione. Invece la Lazio è una squadra forte, è una squadra fastidiosissima, e gli riconosco una grande virtù, cioè sono consci in maniera esasperata dei loro mezzi, sia per quello che riguarda l'aspetto positivo che per quello che riguarda l'aspetto negativo. Sono sempre compatti, sanno interpretare bene la partita, sanno essere sia in pugine che in martello, e non si vergognano neanche se c'è da dare un calcione alla palla. È una squadra fastidiosissima la Lazio. Assolutamente, molto ben allenata. Grazie Stefano, grazie mister. Grazie a presto. A ciao, ricordate, se ti chiamano più tardi, percentuale per me e Pardo, ti diamo l'IBAN, giusto Pier? Certo, eh? Certo, vedi, ha già attaccato il treno, perché già ce l'ha chiamata sotto. Senti, andiamo al volo con due ascoltatori che abbiamo tre minuti. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare una domanda, volevo che si parlasse di Cairoli. Si parla di tutto tranne di Cairoli. Ma è possibile di Toni Cairoli? Guardi, è stato nostro ospite 2 settimane fa, lo convocheremo presto ancora. Perché domenica scorsa, venerdì, lo so, ma noi abbiamo detto, cioè, ma che gli era Fontanesi, no, ma senz'altro, insomma, non è che possiamo parlarne tutti i giorni, l'abbiamo fatto, è nostro amico, è stato nostro ospite, non so quante radio nazionali ospitino così tanti sportivi come questo programma e come Radio 24, quindi è chiaro che io vi invito ad ascoltarci tutti i giorni dalle 14 alle 15, dopo un mesetto di full immersion, facciamo i conti, ok? Jacopo Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda per entrambi, sia te che Pardo. Sì. Quanto è lontana questa Inter dalla prima classe, ovvero Juve e Napoli? Bella domanda. E poi un'altra domanda a Pardo, quando vedremo il tridente Biasin, Genta e l'altro Ordine, Franco Ordine a Tiki Taka. Ma sì, su questa la seconda tralascerei. No, buona idea, mi piace questo diretto, mi piace, funziona. L'Inter invece è interessante, perché non è così lontana, eh. Poi dicono, ma vabbè, non è bellissima, vabbè, però è una squadra tosta, solida, con il veleno nella coda, ti tiene lì e alla fine fa lo scorpione. Guarda, secondo me ci sono due elementi fondamentali. Il primo, che proprio perché fino a questo momento l'Inter non è stata troppo spettacolare, vuol dire che ha un grande margine di crescita, cioè c'è ancora molto c'è ancora tanto margine per migliorare. Però togliere una cosa al volo, non è parente dell'Inter di Mancini, che di quella degli 1-0. Per me è di più, è sicuramente di più. Poi io credo sia difficile, onestamente, che l'Inter vinca il campionato. La vedo fra il terzo e il quarto posto. Però intanto, secondo me, quella posizione in classifica ci sta, e ci sta a pieno titolo. Mi sembra che si stia avvicinando a Juve e Napoli. E ripeto, da un lato c'è Spalletti, che ha dei margini enormi per lasciare la sua impronta su questa squadra, e dall'altra c'è un vantaggio pazzesco, che è il fatto di non avere le coppe, che è realmente un elemento che può cambiare gli equilibri. Allora ti saluto, ti vedo stasera a Tiki Taka. Yes. Non farmi far tardi, Per me mi viene sonno, mi cala la palpebra. Che ora stasera? 23:45, classico. Grande classico. Ci vediamo dopo, Pierino. Ciao. Allora, chiudiamo qui questa puntata del lunedì di Tutti Convocati. E ovviamente saremo qui tutta la settimana con grandi sorprese, ricchi premi e cotilloni. Quali lo scopriremo. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!